Mercoledì delle ceneri. La pulizia disarmata urla dagli angoli, un coriandolo sopravviverebbe bene in un angolo alla quaresima, ma ammollato dalla pioggia acida perde la sua piccola forma, il suo piccolo colore scivola nel grigio e ci si confonde. Un'anoressica in cucina abbraccia un cespo di insalata, suo graditissimo pasto solitario, poi lo carezza con la mucchina. Forse ha ancora paura dei cannoli di Cuffaro. Suona, suona, fisarmonica, scassa biasimo, quel che un ammazza ingrassa.